E con noi Alessandro Balestrieri per parlare dello spettacolo 200 Decibel dal 3 al 6 maggio al Teatro Studio 1 a Roma. Alessandro, benvenuto. Ciao, grazie. Buonasera, buon pomeriggio a tutti. Allora, sei autore, interprete e anche autore delle musiche originali. Ci parli un po' di questo? Intanto lo descriviamo, di cosa si tratta? Vabbè, sono autore e coautore in realtà, Sì. sia del testo che delle musiche. Del testo sono coautore con gli altri miei due colleghi di compagnia che sono anche in scena, che sono Andrea Zaccheo ed Elena Alfonsi, mentre per le musiche sono coautore con Riccardo Romano. Lo spettacolo è, parto dal titolo, 200 decibel è praticamente l'intensità media prodotta dallo scoppio di una mina, una bomba. Praticamente noi abbiamo deciso di lavorare un po' sul tema della guerra, abbiamo iniziato a raccogliere delle testimonianze da svariate guerre e abbiamo iniziato a costruire dei personaggi che avevano in comune la sofferenza legata alla guerra, erano delle vittime di guerra. Attorno a loro poi abbiamo costruito altri personaggi che sono delle entità in realtà, i potenti e lo spettatore. Abbiamo inserito tutti quanti in una specie di grande videogioco, se vuoi, che è questo videogioco della guerra che si ripete da sempre, con personaggi diversi, ma sempre più o meno con le stesse dinamiche. Quindi c'è la possibilità che tu sia potente, che tu sia vittima o che sia spettatore di una guerra, ma comunque in questo presente noi viviamo in tempo di guerra e dobbiamo interrogarci, secondo noi, rispetto alla guerra, perché la vediamo attualmente da spettatori. Ma se torna, ce Certo. l'abbiamo qui dietro l'angolo. Quindi abbiamo deciso, insomma, di fare questa avventura, che la chiamiamo un po' così perché il tema della guerra è comunque molto è vasto, rischi facilmente di essere didascalico a volte o rischi di voler fare il maestrino, no? Sì. Rispetto a un tema così importante. Noi in realtà lo affrontiamo proprio come un gioco che a volte fanno anche i bambini, no? Quando giochi a sparare. Poi è un gioco che diventa serio, quando sono i potenti a giocare con le vite, delle vittime. E a volte è un gioco anche per chi guarda, perché, ha un immaginario della guerra molto legato ai giochi, al videogame. L'occidentale oggi pensa alla guerra in un certo modo, che è anche molto romanzata rispetto a quella che magari poi è viverla, una guerra. Sì. Senti, rispetto all'origine di questo progetto, cosa ci dici? Sì, noi abbiamo inizialmente, è una storia che abbiamo letto su un giornale online di un clown in Siria che è stato ucciso da un bombardamento. Lui era un clown che aveva deciso di restare in Siria, nonostante tutta la sua famiglia era scomparsa, uccisa dalla guerra, per fare il clown con i bambini. Partendo da questa storia ci aveva colpito, abbiamo iniziato a lavorare, abbiamo fatto il primo quarto d'ora, 20 minuti, che abbiamo presentato qui al Teatro Studio 1 in occasione dei Pillole, del concorso che organizzano qui al Teatro Studio 1, e abbiamo iniziato a lavorare. Abbiamo composto i primi 20 minuti, nelle quali ci sono tanta musica insieme ad alcune testimonianze. Poi, in realtà, dopo il Teatro Studio 1, lo spettacolo ha preso una piega anche un po' differente. I 20 minuti sono rimasti più o meno gli stessi, ma sono cambiate delle cose. Rispetto allo spettacolo, voglio dire, ed è importante che è uno spettacolo, diciamo, dalla vocazione musicale, cioè ogni personaggio ha, diciamo, un tema. Noi da anni seguiamo una ricerca che va proprio verso un teatro musicale inteso come, cioè la musica è intesa come protagonista o coprotagonista del testo. Usiamo pochissime scenografie, non c'è praticamente nulla se non luce e delle aste microfoniche. Praticamente la musica è anche scenografia, no? di tutto lo spettacolo. Quindi c'è una specie di onda emotiva, come nei concerti. Si passa da una traccia all'altra, e all'interno delle tracce ci sono le storie, ci sono le scene, ci sono delle cose, diciamo, ecco. Senti Alessandro, avete un sito internet, una pagina Facebook di riferimento? Compagnia su internet scrivendo Matuta Teatro, abbiamo il nostro sito, idem su Facebook, Matuta Teatro, o anche Mat Spazio Teatro, che invece è la pagina del nostro spazio a Sezze, in provincia di Latina. Instagram uguale, anche Matuta Teatro, insomma, basta digitare Matuta Teatro e ci trovate. Benissimo. Allora ricordiamo l'appuntamento con 200 decibel dal 3 al 6 maggio al Teatro Studio 1 a Roma. Coautore del testo e delle musiche originali e attore in scena Alessandro Balestrieri. Alessandro, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, vi aspettiamo tutti a teatro. Ciao. Ciao, ciao.